Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. Ed eccoci qua nuovamente in diretta venerdì 1 dicembre, quindi diamo inizio anche a un aspetto importante per la nostra città, che è chiaramente in crescita per quanto riguarda esposizioni, ricerca nell'arte, tutto ciò dovuto anche a crescita di elementi fondamentali per tutto ciò, di età non certo così seniores, per cui questo è motivo di buon auspicio. Beh, l'esempio di Sinigaglia per quanto riguarda le esposizioni al Museo dell'Ottocento. Di 800 parleremo, anche la curatela, anche i progetti. Saluto Ilaria Chia, co-curatrice dell'ultima esposizione al Museo dell'Ottocento. Abbiamo già conosciuto Roberto Martorelli per quanto riguarda gli appuntamenti nel deposito delle memorie e non solo, la ricerca nelle esposizioni di una Bologna che vede non solo un periodo storico, ma un'attenzione anche, appunto, già dal titolo Bologna Pittrice, che lascia intendere determinati aspetti dedicati alle artiste. Insomma, la direzione del settore musei civici di Bologna, curata da Eva degli Innocenti, ecco, altra protagonista per dare a questa formazione che ho appena elencato una concretezza, una coordinazione, una possibilità certamente meritoria di attenzione, è contenuta in quello che sarà Bologna Pittrice dal 1 dicembre 2023, anche se già sono da per così dire iniziati i lavori di preparazione, e sarà ovviamente un percorso esteso, arriverà fino a giugno, andrà a intersecarsi con altri aspetti che sono legati alla mostra, all'arte, le mostre in attesa della mostra, Carlotta Gargalli, una pittrice bolognese nella Roma di Canova, ne abbiamo parlato, del Museo dell'Ottocento, Giovanni Masotti, Turbamento ed Estasi, che sarà dal 9 dicembre al 4 febbraio al Palazzo Comunale d'Accursio in Piazza Maggiore a Bologna, e concludo con Fioranti, piccoli e grandi maestri di bellezza, fino al 23 dicembre 2023 alla Galleria De Fusari in via De Fusari. Comunque questo è un antipasto, si può dire, di certo grande gusto. Appuntamenti, conferenze, martedì 5 dicembre alle ore 17, Bologna scomparsa, la via del mercato di mezze adiacenze. Il programma è indubbiamente corposo, come vi ho detto, con Bologna Pittrice si va ben oltre per quanto riguarda l'immediato, si arriva fino a giugno, si arriva fino a un periodo che poi andrà, e per curiosità l'ho chiesto ovviamente, a collegarsi anche a quelli che sono gli appuntamenti con il deposito della memoria della Certosa. Onore al merito, aggiungo anche in questo All Star Game Maria Luisa Pacelli della Pinacoteca, quindi vedete, inizia in mostra la rubrica che ha avuto anche motivo di critica. Ma come, ti rivolgi solo da Ferrara a Rovigo a Padova? Mi rivolgo sul territorio nazionale alle mostre che meritano attenzione e che hanno progetto di crescita, in questo caso finalmente, come ho più volte ripetuto, anche Bologna è certamente merito di attenzione e soprattutto di crescita, con elementi giovani, insomma, diciamo nella esplosione, nel percorso di ricerca. Il lungo 800, 1796-1915, Bologna Pittrice, e questo inizio di conversazione con Roberto Martorelli in presentazione ieri. Cominciamo questa conversazione con Roberto Martorelli, finalmente ci ritroviamo, ennesima organizzazione, diffusione di contenuti culturali e artistici. Buongiorno Roberto. Buongiorno a tutti. Di che si tratta in questo caso? Parte un grande progetto che durerà fino a giugno, ma vi presentiamo solo la prima parte, dedicata alla pittura bolognese dell'Ottocento. È una vastissima programmazione che parte dal 1 dicembre e finirà il 17 marzo. Penso che per la prima volta sono coinvolti tutti insieme antiquari, istituzioni e associazioni culturali su un progetto proprio sulla valorizzazione del patrimonio bolognese, della pittura bolognese dell'Ottocento. Partiamo dall'organizzazione, quindi enti, organizzatrici. Tutta l'iniziativa è promossa dal Museo Civico Bologna, partendo dal Museo Civico del Risorgimento. Io e Isabella Stancari abbiamo avuto questa idea, insomma, di questa sorta di progetto diffusissimo,

per quello che non sono riuscito a definirli juniors, dico, ma neanche senior, ecco, questo All-Star Game di convocati per l'arte e per il portare avanti un lavoro importante. Sì, sono già chiaramente con uno studio, un approfondimento, una formazione e anche un'esperienza, però non posso certo definirli signores, anzi tutt'altro, quindi di buonissimo auspicio tutto ciò per una città che merita queste attenzioni. Quindi rispondiamo anche noi con la stessa attenzione, anche perché vi posso assicurare che è un grande piacere scoprire o riscoprire questi aspetti artistici di una Bologna purtroppo sottovalutata, di questo abbiamo parlato anche con Roberto. A breve si alza al sipario in scena sui 103.1, stacco musicale e torniamo tra pochissimo in scena, la rubrica che vi porta sul palcoscenico curata dai 103.1. Doppio appuntamento quest'oggi, a tra poco. The magic of your smile, every time I sing my melody.